Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. La procura di Roma procede per omicidio volontario nei confronti dell'automobilista scappato a piedi e non ancora rintracciato, che attorno alle 8 di ieri sera a Roma non si è fermato a un posto di blocco della polizia e nella fuga ha ucciso sul colpo una filippina che aspettava l'autobus. Corazon Perez a bordo si chiamava, 44 anni, collaboratrice familiare. 8 i feriti, i più gravi sono due filippini, un uomo di 38 anni e una donna di 47, un'italiana di 33 e una 24enne francese. È successo nel quartiere Prima Valle, zona periferica della capitale. La macchina pirata, intestata a un rom che ne possiede almeno altre 20, inseguita dalla volante che aveva intimato l'alt poco prima, ha proseguito la corsa finché non è stata abbandonata dalle 3 persone a bordo. Questa è una mattina singolare e questa è una trasmissione singolare, perché avrei potuto lambire, toccare, cercare di approfondire nel tempo a disposizione questo che è l'argomento di apertura oggi dei giornali, dei siti che comunque trattano qui a Roma cronaca locale, ma è un argomento di portata nazionale, perché non è proprio da tutti i giorni una macchina che, come fosse una pallina da biliardo, si va a prendere tutti i birilli e guarda caso si va a prendere tutti i pedoni, che anche loro sono stranieri, anche perché poi oggi alle fermate gli autobus soprattutto sono stranieri, e fa quasi una strage. Perché per puro caso finora le persone decedute sono soltanto una, perché una macchina a 180 all'ora sparata velocissima poteva fare anche molto di più. E poi naturalmente al centro della notizia sintetizzata in questo pezzo c'è di tutto. C'è il pretesto questa mattina di tweet infuocati, di proclami, di scese in piazza, distruggiamoli tutti, ammazziamoli tutti, sì, perché la macchina era gestita da Rom, apparteneva a un Rom che ne ha altre 20 a disposizione, è nell'ambito di un paio di campi nomadi della zona Casal Lombroso e la Monachina, che sono stati già al centro di un'infinità di polemiche, e riviene fuori, riemerge un problema che è difficile affrontare con argomenti razionali. Ho più volte parlato dell'inutilità dei campi Rom, dei soldi buttati via, della mafia capitale che anche su questo aveva il suo lucrare, sulla necessità comunque di capire a fondo il problema, ma oggi non ci sono argomenti in realtà razionali di fronte a qualcosa del genere. E quelle che sono le vox populi degli abitanti della zona, nel momento in cui sono stati fatti i primi accertamenti sul luogo di questo fatto, non lasciano ombra a dubbi. Andate, continuate a dare i soldi al sindaco di Roma, molto bravo, dammi casa, dammi tutto, guarda che hanno fatto, 8 persone. Chiamatelo e gli dite che viene qua, per essere quello che è successo, i suoi tanto cari rom di merda, che cazzo hanno combinato? C'ha ragione, fuori tutti, Raus, proprio, levarli tutti. Poi dice uno via la pistola e spara in testa, ecco come siamo lì tutti, siamo una Siamo razzisti su questo? Se lo diciamo siamo razzisti, allora fatti che io non razzisti. Sono mai stato uno definibile buonista, tutt'altro che buonista, figuriamoci, quindi mi piace osservare con distacco i fenomeni, cercare di capire i punti di vista, farmi una mia opinione. Rispetto al problema Rom, lo generalizzo, non uso nemmeno il termine esatto, comunque è qualcosa che fa parte ormai del nostro vissuto, del nostro sopportato. Nelle metropolitane italiane, soprattutto romane, è normale che ci sia l'assalto alla diligenza ogni mattina di ragazzini, ragazzine che saltano addosso al turista per prendergli le borse. Si parla, si discute, è da una parte un appiglio facile per faccio demagogia, per i grandi purificatori del paese, che dicono prendiamoli, bruciamoli, mandiamoli via. D'altra parte altrettanto demagogico appiglio per tutti coloro che dicono ma no, ci vuole comprensione, ci vuole inclusione e via dicendo. Non ho in questo momento un'opinione precisa, però volevo mettere questo episodio intanto chiamando a raccolta gli ascoltatori, visto che il senso di questo spazio radiofonico è proprio la reazione immediata del pubblico che ascolta. Mi piace, è la mia maniera per capire a caldo qual è il punto di vista della gente che ascolta, la gente che vede. succede. La gente non ha altri strumenti di lettura e di decodifica che le notizie che arrivano, rimbalzano, passano nei loro smartphone, che le giucchiano nei titoli dei giornali. Quindi 800240024. Vorrei mettere a confronto la notizia dei rom cattivi con la macchina uccidono e falcidiano persone innocenti, fra l'altro maggiormente soprattutto altri stranieri, con quest'altra notizia che è anche al centro comunque il problema dei rom. La stazione Termini era la base di adescamento di minori maschi e femmine costretti a prostituirsi da una banda di 6 persone sgominata dalla polizia al termine di un anno di indagini. I 6 stazionavano nei pressi delle scale mobili della stazione dove attendevano l'arrivo dei minori rom, contattandoli di persona o telefonicamente. I rapporti sessuali venivano consumati in strutture ricettive vicine, nelle abitazioni degli indagati, in parchi cittadini, bagni pubblici o a bordo di treni in sosta lunga. I compensi per le prestazioni sessuali variavano dai 10 ai 50 euro. Tra gli indagati alcuni residenti nella capitale e nell'Interland, altri nelle province di Rieti sempre e di Viterbo. Di rom si tratta, di bambini rom. La stazione Termini pullula di bambini rom. Si sono fatte fior di inchieste sul fatto che stazioni davanti ai distributori automatici di biglietti per turlupinare, rubare, sgrassare i turisti, ma stranamente prima di questa inchiesta nessuno sarà mai accorto che da anni lungo le scale mobili della stazione Termini, scale mobili che io prenderò almeno 4 volte al giorno, ci fosse un fiorente giro di prostituzione minorile, i cui frequentatori, si parla di 1 migliaio di clienti, tranquillamente attingevano a questa sorta di cuccagna prendendosi ragazzini rom, inchiappettandoseli per 10 euro a botta, e 3 preti sono già stati messi dentro questo tipo di operazione, di cui eccelle Don Dino, che è un parroco eclettico che voleva riscrivere la Bibbia, la storia sacra, in chiave di appetiti sessuali per ragazzini. A casa gli hanno trovato 17.000 foto pornografiche con cui i protagonisti erano ragazzini, soprattutto rom e soprattutto stranieri, che lui bardava con abiti talari, con vestiti da prete, un po' come facevano questi romantici fotografi tedeschi ottocenteschi, von Gloden, che andava sulle rovine di Selinunte, di Pompei, prendeva questi ragazzini nudi e li fotografava addobbati come piccoli dei greci. Beh, il prete aveva questa sua inclinazione estetica, fotografava i piccoli rom. Lo hanno beccato con un ragazzo che aveva appena 18 anni, da poco ha avuto 18 anni, quindi ex minorenne, mentre stava andando in un albergo per consumare una sua notte d'amore. Si è giustificato, era un bravo fotografo, mi cercavano per fare dei book, perché a loro aprivo la strada di attori pornografici. Sono sempre protagonisti dei rom. C'è sempre qualcosa che ha a che fare con un rapporto problematico fra la nostra civiltà in decadenza e queste forme di arcaica, non più attuale, non più in linea con i nostri tempi, sopravvivenza di sacche di qualcosa che è tribale, è lontano. La convivenza è data però da questi episodi cruciali. Loro si vivono delle nostre debolezze, e la nostra debolezza è tale per cui anche gli aspetti che stigmatizziamo, consideriamo negativi, toglietegli i figli, dicono questa mattina. Sì, toglietegli i figli, ma finché i figli rimangono a disposizione, c'è chi di noi, e sono 1 migliaio dentro la stazione Termini, ne fa comunque un buon uso, almeno dal suo punto di vista. 800240024, Massimiliano. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo raccontare la mia esperienza. Sono stato investito da un rom senza patente, senza assicurazione. A Roma? A Roma, verso Torpignattara, Centocelle, eccetera, accanto a un campo rom. Questo rom, poi sono venuto a sapere, girovagava per il quartiere come un pazzo da almeno una settimana senza mai essere stato fermato. In effetti anche i protagonisti di questo episodio di ieri sono stati subito identificati dalla popolazione del quartiere, perché li conoscono, sanno, certo, che sono gente conosciuta, che in quella zona almeno spadroneggiano. Esatto, voglio dire, poi è chiaro che dopo che uno sta 1 anno e mezzo con una gamba spezzata, 11 chiodi dentro una gamba, perde il lavoro che faceva, ne deve fare un altro, eccetera, diventa un po' razzista, anche perché io rumeni che lavorano li vedo, zingari che lavorano no, mi dispiace. Insomma, io non è che ho paura di dare spazio a pareri come il suo. Anch'io, se mi avessero fratturato una gamba, altro che mi sarei sentito di dire, di fare, lo capisco perfettamente. Però quello che mi domando è: dove sta la soluzione? Qual è il bando della matassa? Non è che dobbiamo aver paura dei nostri risentimenti. Nel suo caso il risentimento è più che giustificabile. Quello mi viene a capire. Ho messo due episodi sul quale anche lei mi piacerebbe che riflettesse: i bambini rom che si prostituivano dentro la stazione Termini, e i rom che sono diventati padroni di territorio, dove spadroneggiano come fossero delle gang malavitosi, ma lo sono a tutti gli effetti. Qua stiamo parlando di malavita organizzata, non stiamo parlando di altro, mi sembra, no? Stanno gestendo un territorio con azioni di malavita organizzata. Non avrei altra spiegazione, poco a che fare l'etnia, il rispetto, le usanze. Hanno militarizzato un territorio. Lei come la pensa di questi due episodi messi a confronto? Qual è il suo punto di vista? Da una parte ci stanno i delinquenti, non ci stanno dubbi, quelli che sfruttano questi ragazzini, ma questi ragazzini sono sfruttati anche perché i genitori li lasciano sfruttare. Questi saranno figli di qualcuno? Cioè, suo figlio lei lo manderebbe alla stazione Termini a prostituirsi? Ma c'è, chiaro, chiaramente no, è logico. Sì. Cioè, voglio dire, ma di che stiamo parlando? Non è un fatto di etnia, perché poi mi vengono a dire loro sono allevatori di cavalli. Ho capito, i cavalli non ci stanno più, che dobbiamo fare, Nicoletti? La lancia libra adesso cavalli. Ho capito, però voglio dire... No, la riflessione allora... Cioè, mio nonno faceva il facocchio, che a Roma era quello che faceva le ruote dei carretti. Non ci stanno più i carretti, ha dovuto cambiare mestiere mio zio, che era quello che ha... Mi viene a pensare che una prima risposta potrebbe essere: non possono convivere nello stesso spazio, nello stesso tempo, una cultura di tipo arcaico e una cultura civilizzata, non possono convivere. Cioè, per me non ci stanno proprio possibilità. Voglio dire, il ragazzo di colore che viene qui in Italia e si mette a lavorare, io lavoro, vivo accanto al mercato dei Trionfati, ci stanno dei ragazzi di colore che si fanno un mazzo che non finisce più, ma loro erano abituati nella loro capanna, che andavano nel bush a cacciare il giaguaro, a cacciare la giraffa. Se qui non lo possono fare, se devono mettere a lavorare, non è che possono andare a cacciare. È chiarissimo, Massimiliano, chiarissimo. Antonio, velocemente, Antonio. Antonio? Pronto? Sì. Sì, pronto. Ma praticamente ribadisco quello che ha detto. Il mio intervento voleva essere sulla stessa linea di quello che ha detto l'ascoltatore che mi ha preceduto. Cioè, praticamente lo sfruttamento è più di questa razza di malati che sono i pedofili, o sono i genitori che sfruttano i loro figli minori per chiedere l'elemosina, per rubare, per andare a prostituirsi? Ecco, questo è il problema. Ma a parte questo, che ha già sviscerato l'ascoltatore di prima, vi vorrei dire che il problema dei rom si inserisce nel complesso aspetto e problema dell'immigrazione e dell'accoglienza che noi stiamo dando a migliaia di... Ormai non sono più immigrati, ormai sono persone che vivono da generazioni in quel territorio. È un'altra cosa. In questo caso non sono immigrati, ma sono, diciamo, popolazioni che in qualche maniera, non declinando nulla, non arretrando nulla rispetto a quelle che sono le loro tradizioni, il loro stile di vita, sono ormai inseriti in dei territori. Se uno ha delle automobili, se uno è stanziale, giocando secondo me anche sulle nostre parti deboli. La nostra parte debole è che esistano preti per primi, perché sono quelli che può dare un esempio, ma altri esseri apparentemente civilizzati che sfruttino la tratta della prostituzione minorile rom, e allo stesso tempo esistano delle istituzioni non capaci a dare risposta a questo problema, se non quello di far lucrare ancora di più le persone che sui campi nomadi hanno il loro lecito o illecito, anzi piuttosto guadagno. Ci fermiamo un istante per il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. I due uomini sono riusciti a sfuggire alla cattura, bloccata invece la ragazza. Avendo 17 anni, potrebbe essere solo denunciata. Sono nomadi del campo della Monachina e questo ha scatenato la polemica politica, nonché rabbia e razzismo, non solo sui social. Questo è quello che succede, insomma, questo è il paese nostro. una scena apocalittica, ha raccontato un testimone. Secondo la ricostruzione della questura, la macchina viaggiava a forte velocità su via Boccea, facendo zigzag forse a 180 km orari tra gli altri veicoli. Una pattuglia ha intimato l'alt, ma il conducente ha accelerato. 800 24 00 24, non ho soluzioni in tasca, non ho risposte consolatorie, non ho nemmeno voglia di aizzare quello che è il risentimento, in questo caso giustificabile, di chi ascolta queste notizie. Ho soltanto voce a quello che è l'impressione generale delle persone, mettendo due episodi a confronto che dimostrano comunque che esiste un ventre molle, che è quello del nostro attuale stato di civilizzazione. Da una parte non riusciamo a concepire una maniera per convivere con forme diverse dalle nostre, e nemmeno a condizionare, per quanto sia civilmente possibile, le maniere di vita perché siano allineate perlomeno con un paradigma di convivenza possibile. D'altra parte, per alcuni versi, vuoi per chi gestisce i campi nomadi, vuoi per chi usufruisce della prostituzione minorile dei bambini nomadi nella stazione centrale di Roma, anche noi mostriamo il nostro lato debole. Scrive qualche ascoltatore: a cacciare giraffe, ma questo pensa che sia l'Africa, a studiare qualche libro ogni tanto. Beh, l'ascoltatore ha usato un termine colorito, a cacciare giraffe. Chiaro che nessun immigrato nel suo paese cacciava giraffe. I bambini rom sono sfruttati. Il fatto che i bambini rom siano sfruttati dagli italiani direi che aggrava piuttosto che alleviare il problema della presenza dei rom. Sì, lo aggrava. Oddio, se non fossero bambini rom sfrutterebbero i bambini di qualcun altro. Però qui è sintomatico che la tratta è industrialmente gestita. Dov'è il bando della matassa? Scrive un altro ascoltatore. Per me è molto semplice. La legge deve valere per tutti. Chi la infrange deve pagare e non essere lasciato dopo poche ore, di qualsiasi etnia o religione esso sia. Il fatto che un minorenne venga rilasciato in questi casi avverrebbe anche se non fosse rom. È più facile nel caso di rom trovare minorenni implicati in atti contrari alla legge. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascolti, ma io voglio chiedermi, anche razza di nazione viviamo noi? Ma è una nazione questa? Questa è una nazione di buffoni governata da delinquenti mafiosi a ottimo stipendio, che se andassero a lavorare nelle industrie private li caccerebbe a calci in culo dopo mezz'ora. Va bene. Sì, ma questo lo può dire di qualunque... No, sì. Guardi, adesso le dico una cosa. No, ma lo può dire su qualunque cosa questo. Perché non gli fa niente. Ma come? No, non lo sa. Alambrate tutte le mattine, sì, sui treni. Io faccio il pendolare Bergamo. Sì, però usi un pochino di calma, sia tranquillo, che si, sì, può parlare di tutto senza infervorarsi, io capisco, ma tutte le mattine faccio quel treno, ci sono gli zingari che salgono su a scippare, rubare, eccetera. C'è la polizia ferroviaria di Lambrate, telefonate se non ci credete. Allargano le braccia e dice: cosa gli facciamo? Tanto noi abbiamo ormai una nazione che ha lo sfacelo totale, per quello che la gente sta scattando. Ma lo stesso problema non probabilmente c'era anche sa qual è la mia due governi fa, tre governi fa, perché non, io la prendo da almeno 30 anni la metropolitana a Roma, non è che il problema era molto diverso 10 anni fa, 15 anni fa, non ho visto grandi differenze, quindi secondo me è uno scatto di tipo diverso, non dipende da chi governa, forse se governerebbe chi oggi dice mettiamola a rogo lo farebbe, ma non sarebbe manco possibile. Marco. Sì, buongiorno, io chiamo da Catania. Siamo da una terra che è lontana anni luce, secondo me, dal concetto di civiltà che viene inteso per quanto riguarda soprattutto il nord Italia. Beh, è una fantastica città Catania, ci sono stato da poco, la trovo meravigliosa. È fantastica, sì, però le posso dire che da cittadino spesso mi indigno per come si comportano i cittadini. Però posso dire una cosa, ho visto più ragazzi e ragazze soprattutto girare nottetempo tranquilli per Catania di come li veda girare a Campo dei Fiori a Roma, lo devo dire onestamente. Ma questo sicuramente, io non sto parlando di sicurezza, sto parlando del fatto che noi prima ancora dei rom abbiamo problemi di ben altro ordine, in quanto avete un fantastico quartiere anni 50 con ancora le puttane anni 50 affacciate ai, esatto, balconcini, divertentissimo, è folklore. Ad esempio nel salotto bene le può trovare la sera già a partire dalle 7, appunto, le cosiddette puttane. Sì, però sono quelle antiche, fanno ridere, sono signore di 70 anni, è un folklore, non credo che... Sicuramente sì, però per le famiglie capisce bene che invece non è così. Ma comunque volevo dire una cosa. Mi è piaciuto prima la definizione di malavita organizzata. Allora, sono state fatte tante lotte, ci sono delle procedure penali ben precise sia per mafia che per camorra che per 'ndrangheta e per qualsiasi altro tipo di organizzazione criminale. mi piacerebbe che si facesse qualcosa di preciso e mirato per punire anche questo tipo di malavita organizzata. Lei dice ci vorrebbe una legge specifica per colpire un problema specifico. Questa potrebbe essere una risposta, forse nessuno ha il coraggio di farla. Una legge specifica per colpire questo fenomeno quando si tratta di una configurazione di malavita organizzata. L'unica cosa che è venuta propositiva. Ci sentiamo domani.